Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un affettuoso saluto a tutti voi da Gesi e Antonio. Bene Antonio, siamo qui. Stasera abbiamo un ospite virtuale, ma prima lasciamo la parola a te. Allora, un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi e che ringraziamo per il supporto che ci consentono, diciamo che ci consente di andare avanti in questa appunto avventura, in questa intrapresa. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it. E ricordiamo anche la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. Certo. Sai Antonio, siamo abbastanza contenti tutto sommato, perché a quanto ci risulta che ci ascolta anche in internet, ce ne sono parecchi, sì, vero? Sì, esatto, il gradimento sembra crescere e questo naturalmente ci dà soddisfazione, certo. E ci gratifica nella nostra opera. E ci dà anche il coraggio di proseguire. Assolutamente, con vero. Sempre maggiore entusiasmo. Certo, certo. Bene, allora come ho detto prima, stasera abbiamo un ospite virtuale che ci parlerà di Asiago. Vuoi presentarla tu? È la nostra amica Franca Turchetto. Spero che gli ascoltatori si ricordino della signora Franca. Beh, è difficile dire il contrario. Dimenticarsi, vero? Naturalmente. Beh, siccome si parla di Asiago e sì, andiamo per un attimo in montagna, ci ascoltiamo il coro dei Crodaioli con Porta Calavena. Eccoci di nuovo in studio e fra un secondo avremo al telefono la signora Franca Turchetto. Franca? Sì. Buonasera. Buonasera Franca. Buonasera. Bentornata. Siete ritornati. Siamo finalmente ritornati. Viaggiatori. Sì. Abbiamo fatto un po' di vacanza. Feriali. Feriali. Hai sentito Franca a Porta Calavena? È un coro dei Crodaioli. No, ho sentito in ultima adesso, sì, sì, ma non ho capito, ho avuto il piacere di sentire Eddie per primo stavolta. Sì, perché... Sì. Si è passati in seconda categoria. Siamo passati in seconda giusto, categoria. Ognuno ha il proprio ruolo. Ecco. Allora, tu oggi ci parlerai di Asiago? Sì, no, non sei proprio di Asiago, sei do brevi storie, insomma, non fa parte della storia italiana, ma fa parte della storia di Asiago. Perfetto. E allora noi siamo qui tutto orecchie ad ascoltare. No, volevo una piccola promessa, dato che appunto volevo salutare ed ringraziare tutti gli ospiti che avevo avuto sto periodo. Bene. Ecco, un saluto da parte mia e grazie di tutto quello che mi ha insegnato. Ah, questo fa piacere, grazie. Perché non sapevo. Sono stati degli ospiti stupendi, sì, come te. Sì, veramente, complimenti, sì, anche per la scelta. Allora, complimenti anche a te. E complimenti a tutti, dai. Siamo finiti. Col tema fioi. Ecco. Adesso vi spiego. Demo a Asiago. Sì. Su una frazione dei sette comuni. Demo a Roana. Sì. Ecco. Dunque, mi è già 4 anni che vado da che parte. E siccome che sono una curiosona, vado a mettere il naso dappertutto. In più, mi trovo che mi vado in giugno mia, perché finisce le scuole e tutto è libero, vado a. E se proprio in giugno, che comincia in giugno diremo, i verse un festival cimbro. Sì. Sì, famoso. Tutto famoso, sì, che dopo va avanti fin quasi a fine del luglio, perché dopo ogni paese ha i suoi spettacoli, i suoi cerimonie, i suoi ospiti, i suoi feste, insomma, e va avanti abbastanza. Mi parlo per quello che so e quello che non so, perché non avendo la patente non guida macchina, vi ho chi mi porta, mio marito adesso non guida, perciò tutti in letto. Così vi riposate. Ecco, allora cominciamo. Dal 14 al 25 di luglio e anche a giugno, il comune di Roana, che sarebbe uno dei 7 comuni di Asiago, sì, è il verse e il festival cimbro, che sarebbe Hoga Zeit in cimbro. Ah, Hoga Zeit. Hoga Zeit. Zeit naturalmente di derivazione, come dire, dal tedesco evidentemente. È tutto tedesco. Esatto. Ma è stato anche da scuola. Infatti. E seria parole magiche che in cimbro vuol dire tempo alto. Ah. Tempo bello, allegria e festa, perché è tutta una festa continua. Ah, beh. Sono cerimonie antiche, tante fiabe, fiabette, fiabone, e anche ospiti illustri, perché ogni punto passion fa qualcosa. Sta festa, diremo, è un'iniziativa dell'amministrazione comunale, con la partecipazione appunto di 7 fazioni, noi 7 comuni fazioni, ora che sei, Mesa Selva, Rozzo, Campolongo, Canove, Cesuna e Testè Conca. Che paesi strani, che nomi strani. Cioè, a chi non mia, perché tu pensi che mi covado, diremo, mi è centro Geroana, diremo, però mi abito a Mesa Selva. Dopo che c'è Castelletto, che c'è Rozzo, dove che c'è l'arco parco archeologico, un altro paesetto gioso e a finisse, diremo, Asiago. È la parte più vecchia, insomma, è dell'anno 1000 che esiste, facciamo qua. In ogni modo, qui ha queste feste, no? Benissimo. E a chiusura di questo festival, tutte queste facciamo qua, e ricorda le donne cimbre, che ha avuto motivo, che ha dato motivo a un episodio storico. Oh. Ecco, allora, cento e passa anni fa, già eravamo nell'800, fine 800 fa conto, già era difficile arrivare in queste fazioni che ho nominato, o paesetti, che si diventano i paesotti. Sì, perché non c'era la macchina. Non ecco, c'era... perché da Asiago e viceversa, diremmo ora a Roana, Rozzo, no, bisognava che andasse, che attraversava a Pie e a Val d'Assa. Però. Cioè, sta Val d'Assa, fa conto, adesso partiamo da Roana, e a Gesena montagna da Pandasoro, e a Ciama il Costo, fiori. Il Costo, costo famoso, sì. Costo. Quando che si è finito il primo Costo, che a volte non c'era più niente, e che toccava andare da quest'altra parte, e passare un altro Costo, attraversando un Pandasoro e Valle, a pie, tutto e a piedi, su. Beh, cioè a valle era anche abbastanza, oltre che pericolosa, ed era anche faticosa. Ma io, Asiago non è pianeggiante? Ma come... adesso parliamo fuori, Asiago già era separata, ecco, ti ha capito. Ho capito. E ora, mancando, praticamente ora, doveva andare nel fondo di Avai e torna su per l'altra parte, a pie, qua piova, qua neve, qua col giasso, perché mancava sto ponte di comunicazione che i roanesi, diremmo i paesani della Iga, aveva fatto più volte domanda, fin ancora diremmo nel 1815, e già era sotto la dominazione dell'Austria. Non sì. vuol dire niente, ma insomma il ponte non vedeva. È comune, per mancanza dei fondi, il tira fuori un sacco di baie, storie, bugie, che se qua, che se, solite robe, insomma. Passa il tempo, però, e che se una miglioria sulle finanze. E si ripresenta il progetto grazie a sa amministrazione di un nuovo sindaco. Qui che deve volte cambiare. Eh beh, sì. Ecco, e sto sindaco cosa fa? È che fa una proposta di imbonire a valle, copiere, con terra, insomma, la fa più alta, diremo. Guarda che incarnazione. Sì, sì, ecco. Certo. Di imbonire scopieroni e di far un ponte, ne sarebbe venuto più piccolo di quello che progettava, ma a sfortuna fa da parona e il mor prima del tempo. E non si fa più niente. Agli abitanti di Roana, allora, secondo la tradizione cimbra e anche, diremo, superstiziosa, non gli restava altro sostegno delle fate dei boschi. Cioè, siccome che ne altri preghiamo i santi. Ho capito, beh, ma le fate... Io dico che aveva i fatti, i boschi, perché gli elfi, perché aveva gli elfi e i sanguinei e tutte che robe, insomma. Allora, cosa si che fa in cimbro? E dice, die zeligen Beiblein, che vuol dire e beate donete. Zeligen Beiblein. Ho capito. In tedesco. Le beate donnette. Vabbè. Ecco, che queste donnette qua le assicura, gli dà, diremo, il consenso di sto prestar. E ora che risponde, ora sempre in tedesco, die bosen sterben halle haber, die guten verbe beben. Madonna, che brava in tedesco. Allora, mia domanda faccio, ma cosa gaistruega mai queste qua? Insomma, scusa. E vorrei dire, la traduzione vorrei dire addirittura i cattivi morirà e i buoni vivrà. Questa cosa non è mai edizione che oh signore. ma sta a proposito di roba unghe, sai che i tedeschi che tutto però è unghe. I tedeschi. Madonna, ma che unghe. Io non saprei. Ecco, è una traduzione, insomma, di queste die bose streben alle abe gute, ma vuole dire i cattivi morirà e i buoni vivrà. Bene. Arriva la bella notizia che l'autorità militare approva sta costruzione del ponte e anche della strada, per scala e rozzo. E siamo andati nel 93, prima eravamo nel 15, siamo andati nel 93. Insomma, un bel saltino, no? Sì, insomma, ti sa come si continua a fare qualcosa al progetto con tempi tecnici. Gli appalti, tutte che robe. Ma da quest'altra parte, dove che invece aveva comodità, e ora parliamo di Canove, Cesuna, tutte che ha, e aveva già la strada, perché gli abitava a valle. Sì. Dopo andava a Casiago. Non gli assente niente neanche per parte di A. Noi siamo d'accordo e tutto torna a silenzio come prima. Insomma, anche là c'erano le Ma sarebbe tanto più lunga la storia. Vabbè, mia gota giada. Dopo tanti tentativi da parte delle autorità, viene presentato un altro progetto. Viene fissata un'altra data per gli appalti, ma col trucco. Solo per strada, non per il ponte. Ah, niente ponte. Niente. E il progetto finisce in un canton e che ha e si finia. Che ci sta proteste, che ci sta tante robe, insomma, che adesso non so contare, però se in sto momento che cosa succede? Che si fa avanti un tocco di donna. Racconta se la deve presentare a una riunione del consiglio e si presenta sta donna, che si chiamava Tonia Turca. Tonia Turca. Dopo vi spiego cosa che sì. è. E era un bel tocco di donna, una bella moracciona, carattere battagliero, che partendo da Roana, da casa in casa, è arrivata a portarsi drio circa 500 donne. E adesso sono demoniati in comune. E questa sta là e che dice che se io vuoi fare il consiglio, io faccio pure. dopo però l'aggiudicazione l'appalto. Ah. Queste sei parole che ha detto. Tutti insieme in marcia presentandosi a Gesù. Oltre che questo, gli dice questo, e va tutte a Gesù nascigando. Vuemo il ponte, no proeghe. No, noi vuemo proeghe. Ste donne che parlava in cimbro e si presentava davanti a sede del comune e invade il municipio e occupa la sala del consiglio e si senta nei careghe di consiglieri e attonia nella poltrona del sindaco. E gli bloccò seduta. Dove ti trovi queste donne adesso? Non sono neanche uomini. Ascolta, sì. Ci fermiamo un attimo, sì, Franca. Aspetta, ecco. Che mi segno in riunione. Dopo parliamo della riunione. Allora, adesso scusate la mia voce, ma purtroppo il freddo è cominciato, l'umido è cominciato presto. Allora, ci ascoltiamo da Gino Latilla e coro, Vecchio Scarpone. Lassù in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servon più, ho visto un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba col fango disseccato, tra i chiodi ancor pareva conservar. Era uno scarpone militare. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu, quante canzoni sul tuo passo cantato, che non scordo più. Sopra le dune del deserto infinito, lungo le sponde accarezzate dal mar, per giorni e notti insieme a te ho camminato senza riposare. Lassù fra le bianche cime di nevi eterne immacolate al sole, cogliemmo le stelle alpine per farne un volo. Come un tempo lontano, in mezzo al fango con la pioggia e col sol, forse sapresti, se volesse il destino, camminare ancora. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo ancora la nostra Franca. Franca? Sì, io volevo i scarponi per andare su e a guardare. Infatti, non l'ho messa... quei grossi anche. No, l'ho fatta ascoltare a caso. Ecco. Sì. E ora... Siamo in riunione. E blocca sta riunione. Sì. E scomincia a far cagnara protestando a ragion, tanto è vero che per fermarle si sta chiamando in aggiunto da Vicenza la compagnia del 46esimo fanteria. Addirittura. Insomma, i gerarmai, dei bastoni, dei picconi, de forche, e che aveva il pan, il vino, le scarsei, non so che scarsei che aveva, perché sono già in Dante, e che ha fatto un cade notte dentro, gli erano casserai, dopo la mattina gli erano iberai, perché in pratica non aveva fatto niente. Cioè, se non voleva anche mantenerle, insomma, vero? Ti dico che ha fatto una protesta, vada, una rivolta forte, sì. E ora sta Tonia Turca, capobanda, e apporta tra coe un corno da pastor. Era un bel corno da pastor. E doveva adoperarlo in caso di vittoria. Così. Perché sì, porta fortuna il corno. No, proprio il suono del corno. Tipo come le valli svizzere. Sì, sono valli svizzere, no. E in caso di vittoria veniva a avvisare il parroco e anche i parrocchiani. Sta benedetta donna, e che aveva un bel pregio però in mezzo a tutte queste robe, e parlava bene il italiano. Ho capito. Sì, perché era intelligente. Sì, sì. E per farsi capire meglio, e che dice a un deputato, e qua viene il beo, mi adesso veso come che era a parlare. Una roba passata in dialetto, sì, e neanche in italiano, come che era a parlare. E gli dice, sta attenta, e gli dice autorità, niente chiacchiere, ma il ponte, niente consiglio, niente sospensione all'asta, e incitò le donne a essere tutte pronte a resistere. Noi siamo state massa tradite dal tempo passato. È 20 anni che la va dietro con queste promesse, e se adesso la giunta vogliono insistere a tirarla ancora, là è una cosa che neanche la legge può contenere. I nostri uomini che sono all'estero, perché già da tutti in America, sono già da tutto ore che sono all'estero, ganno tutti che ha fatto un telegramma. Hai sentito come parlavano? È ruspante. Hanno chiappato tutto un telegramma. Aspetta, dove sono stato? Un telegramma, no? Che vengano a casa e sono in viaggio per fare il ponte. Noi vogliamo i nostri diritti. Abbiamo pagato abbastanza per i comodi di questi traditori, che hanno una bella strada, e noi altri che siamo segregati dal mondo non abbiamo avuto mai niente. Se credono di scherzare massa, porteremo a casa nostra il municipio, addirittura il municipio, che i padroni siamo noi, il comune è Roana e non Canove, che lo ganno per nostra grazia. Esplicito proprio. Che parlata. No, guarda, questo parlare in italiano. Certo. Giustamente. Dopo un trambusto generale, insomma, il commissario si venne fuori dal consiglio e annunciò che l'asta che avrei avuto il giorno dopo che sarebbe stata risposta. Così i soldati garotto e righe e donne se cacava via dei scarsei tutte le robe che aveva da mangiare da bere. E a Tonia cacciappà il corno e si è messo a sognarlo, tutta contenta di asso bitto. Così i parrocchiani. E qua dopo che sì, che io ho cominciato a fare sto ponte, se riuscio, dopo spieghiamo il ponte, adesso spieghiamo e presentiamo sta donna. Sta Antonia Turca. Sta Antonia Turca. Bene. Allora, sta eroica donna, che aveva nome Pier Antonia Rebeschini, chiamata Antonia Turca. Era alta di statura, mora, ben fatta, e sapeva scriverci, sto che ben che ha detto in italiano. Donna forte e senza più sua lingua, un poco selvadega, e era anche brava da offendere di parolasse. Mi viene da ridere. Tonia sarebbe stato il diminutivo di all'età di Antonia. Sì, come qua chiama Tonia. Sì, e Tur. E turca perché aveva il pè scura intanto e portava in testa un fassueton a forma di turbante turco. Hai capito e perché? Era una bella signora. Sì, sì. Testarda, battagliera, e che sfida consiglieri, autorità militari, deputati, spronando le donne di Roana a muoversi. Però non aveva visto finire la sua opera che aveva tanto a cuore, a donare ai roanesi. E dargli la possibilità, ecco qua vi è bello di questa donna, dargli la possibilità di nuove vie, di nuove strade e di attività. Perché io dico cominciava a avere le prime botteghette, le prime robe artigianali dell'epoca, non so cosa chi faceva. Diciamo che questa donna è stata un po' innovatrice. Ecco. Innovatrice, ci vado a dirti, guarda che donne. Ma... Però ti capisci che è morta da parto, prima ancora da vedere la sua opera finita. Conclusa. Che è morta giovane a 32 anni. E tante morivano di parto. Sì. Allora, torniamo un suo. Sto viadotto su Valdassa, comunemente appunto si chiama Ponte di Roana, è un bel ponte. È stare a Isana nei primi anni del Novecento e inaugurare nel 906. E misurava il primo, perché non è come quello che c'è adesso, il primo io che ho fatto proprio come chi stai buoni poi. Strimizzito? No, già era un ponte, però non c'era bello solido di Piera, c'era un'arcata unica, insomma c'era tutto diverso. Sarà stato dopo coi parapetti de ferro, non so. E Gabriel misurava 180 metri di lunghezza. Il ghese ancora, perché c'ho qui la misura. E il ghese aveva ben 63 dell'unica arcata centrale, che aveva una unica arcata. Sì, il resto c'era tutto attraversato. Era alto 80 metri. E nel periodo della guerra si è stato fatto saltare in aria per sbarare la strada ai truppe imperiali centrali. Ai truppe austriache, no? Sì. Esatto. E c'era... il 4 del dopo pranzo del 22 maggio del 1916 che ho fatto saltare. Sì, sì, la prima guerra mondiale. Ecco, finì la guerra e superata l'emergenza, si sta ricostruito e io origa dura ben 3 anni perché si sta fatto di rinforzi, che si sta a traforare un tocco di roccia per impiantare il pilone di cemento, non so. E diremo, insomma... io ho arrivato da 3 anni per realizzare la nuova opera rifatta con 3 archi, quello centrale, quello di mezzo, è il più grande di tutti perché è 58 metri di use. Però 3 archi adesso... è un bel tocco di ponte. Sì. E si veniva, si sta inaugurando nel settembre del 24, è a presenza del capo del governo, Benedetto, un altro nome, Mussolini. cosa sta? Questa è una storia, insomma, di questo ponte. Ecco. È un bel ponte, è guarda, più che ti pensi che è il più bel ponte italiano fatto suso con pietre rosse di Asiago. Però. Sì, ma notizia poco conosciuta, presumibilmente. Si eleva appunto 80 metri dal fondo e costa 2 milioni e 200 mila lire. Pensa un po', una volta 2 milioni... Era scherzi. Ma forse non c'era i varianti in corso d'opera come che c'è adesso. Ma è che sarà, è che sarà anche stare, anche stare. Insomma, ti ha no, un inciso, vorrei fare un'osservazione su questa Tonia turca. E una lezione dal passato per i cittadini di oggi. Geniale! Ti provo a pensare, è una mobilitazione dal basso di questa fatta, perché se questo è il tipo di evoluzione, o qualcuno la chiama rivoluzione civile che serve, nel senso di sollevare la testa e guardare robe come che sta. Ma guarda che io sfida tutti, esattamente, che mi sono accorto il sindaco. Mi sono stata proprio affascinata anche a me da questa storia. E più che ti pensi che era conto in dialetto mio, che avevo ancora tanti anni fa, mandai 4 ciacque come curiosità. E a Lucrezia, che cioè, sa anche questa storia, nonna fa me lo presti, fa che lo faccio vedere alla mia insegnante. Oggi ho passato tutte le maestre della classe appunto per il discorso che ti fa di questa donna, la potenza di questa donna, forse anche la sua presenza fa si faccia far paura. Femminista ante litteram, no, ma nel senso proprio di prendere in mano la situazione quando che non c'è altri mezzi. E non c'era nessun uomo, perché hanno chiappato il telefono. Hanno chiappato il caso. Però te dirò, ha una potenza evocativa questo talian, come chi parlava in astronomia, che è una roba tra il commovente e come dire, e quello che fa pensare, ecco, una cosa di questo tipo. Ma al modo di dire che ha dei traditori, che ha di tutti i titoli, esatto. E d'altra parte questa era la cosa. Comunque, insomma, il risultato della situazione era questo. Così oggi non se ne trovano tanti. No, non è detto, non no, è detto. No. Adesso che altri mesi per corrompere. Se quello che aveva bastone. Diciamo che non entriamo praticamente nei particolari, ma sappiamo come stanno le cose. Guarda, guarda, è una roba che e di fatti sera al festival con questa rievocazione qua, che è un grumo di donne e che ne ha scelto una Serni o una Mari più alta e si vestia, diremo, a cimbra, con un fassoletto no turbante, perché mi avevo vista con i costumi cimbri, e ha attraccato questo corno di boh di ossa, sì. De ossa. Ah, e quel corno che assona per tutta. Bellissimo. Beh, è stato veramente uno spettacolo stupendo. Sì, no, ma te dico, io fa ancora. È serata conclusiva, arriva a Tonia. Va bene, adesso ci ascoltiamo invece una donna moderna, Malika Yang, Tanka, sì, che canterà Come foglie. tutto il caldo ha squarciato il cielo. Dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Eccoci di ritorno in studio con la nostra amica Franca, alla quale lasciamo la parola. Grazie. Eccoci qua. Un'altra piccola curiosità che mi vuole interessare sempre a Asiago. Nel 2011 mi ho trovato una rivista che era datata da 2011 dove che parla di una straordinaria scoperta nella scultura dell'attore del municipio di Asiago. Esè un leone marciano. Sto leone che ha scoperto ieri, però è una riproduzione sto leone. Ma leone che... suo attore, cioè studiando quello di attore, i zendai a riferirsi a un'altra roba che adesso ti spiego. Una curiosità che se la rivista è dell'11, 2011, non è tanti anni che ha fatto la scoperta. Ho capito. È fatta facendo un restauro nei sai comunale del municipio e ha trovato quello che adesso vi dico. Va bene? Va bene. Allora, straordinaria scoperta nella scultura dell'attore. Da quando mi vado in vacanza a Asiago, mi ha incuriosito che su attore campanaria del municipio che è una gran astra di marmo bianco che rappresenta il leone di San Marco e come si sa simbolo di Venezia e anche della venezianità. E si vede ben non dal basso in alto perché è grande, però non ti dà modo di decifrarlo, di capirlo, se ti vedi che è un leone, però che sei altre robe che non avendo ben, diremo, faccia a faccia, che vuole anche uno che se ne intenda di araldica, come che si sta fatto questo discorso qua, si sta esaminato da esperti di araldica. E ora dicono che a seconda, si vede ben non sempre appunto guardando da terra in alto, a seconda però di come che ti te metti, perché su un posto ti vedi intero, su un altro posto ti vedi solo a testa, su un altro posto ancora ti vedi a coa. Sì. Non te la vedi tu, no? Sì, la tensione di chi chiovarda resta sterile e sconosciuta. Dunque, l'attuale municipio, dopo la guerra, l'ultima guerra, è se sta costruito a fine del 1920, no? È se del 1920. Sì, sì. E no ai tempi della reggenza di Venezia, che è stata stipulata nel 1405. E ora che cavolo fa calè un A su un municipio di recente costruzione? Di secoli, 700 anni fa? Ecco, spero di spiegarmi bene, perché come mai si trova questa raffigurazione di Caleon? Boh, gli studiosi si sono convinto su una serie di simbologie, volendo ricordare basi solide della sua storia, di Asiago diremo, scominciando dal stemma di Asiago, che rappresenta l'antico simbolo della reggenza, a ricordo del governo federale che aveva per capitale Asiago. E siamo nel 405, quando che si sta a firmare il famoso atto di fedeltà a Venezia, cioè reggenza. Quindi c'era Venezia, dei sette comuni. Dunque, sto stendardo, ora parliamo non del leone, parliamo di un stendardo. Il leone è simile al suo attore. Parliamo di questo stendardo che io riga trova, è se del 1600, quello che ga trova dentro la sala del municipio, sì, no? Sì. E affirma il famoso atto di fedeltà con Venezia, diremo, e se in bella mostra nella sala di aggiunta. E se è doveroso ricordare il simbolo veneziano che si trova anche in altri comuni dell'altopiano, prima ancora di reggenza. E qua che ha fatto mistero, no? E ora ti trovi a Canove. A Canove, che è una chiesa, è chiesa di Canove, però non è primitiva, perché è primitiva è del 1374 e è dedicata a San Marco, prima ancora di reggenza. Tanto è vero che quando che a Venezia festeggiamo San Marco e tutta la sua storia, e ora che è dedicata, oltre che a chiesa, anche a piazza, che è a Canove, che è piazza di San Marco. E gli fa la festa come che facciamo noi altri, gli fa la fiera, che sia sagra di cucchi, che sia processione, che sia messa e non so. Che sia anche a rosa, anche e penso che se che sia qualche ospite veneziano diceva anche una rosa. Un legame antichissimo. Sì, quindi. Ma ti dico, se che ha fatto, questi studiosi che ha fatto, come mai che se cosa del 600, stato del 900 e qua ancora prima del 300 che c'era già segni del leone. Appunto. E qua va avanti la storia. Sto simbolo si trova anche sulla famosa piera del confine, che dopo vi dico dove che si chiama Canepas. È un blocco e si trova tra Enego, tra. No, dopo vi dico dove si trova. E è un pieron fatto a triangolare, e lo diciamo come in Cudine. E che c'era, che a volte era, perché si era cavata, che si era fatta di metallo, che c'era appunto il simbolo di San Marco, anche su questa piera. E che c'era una targa commemorativa austriaca. Sì, sì, quindi... E vorrei dire appunto, sto leone, prima ancora che fosse reggenza, esisteva già come simbolo. Mm-hmm. E dopo che c'è anche in altre località. Vede, come mai Venezia si era servito come proprio stemma di sto leone? E che abbiamo già spiegato l'altra volta la storia della leggenda come quella di Asiago, no? E senza andare tanto nei particolari, ricordiamo che il leone che ha sbancato e rientra nella simbologia pre-cristiana afro-asiatica. E difatti in Africa che si dei medaglie che è stemma del leone. Anche in Africa. E beh, ciò, e coso, a Cipro, i conti dell'Usignano, il principe, quello che ha sposato Cornaro, io nel suo stemma aveva leone. Certo, leone è antico, sì, e ecco, anche ha una storia... E difatti dice che il simboese è un simbolo pre-cristiano. E si associa, e qua vi dico un'altra novità, si associa a San Giovanni Battista, che nell'immaginario cristiano, io, Battista, è sicuro e nudità con la pelle del leone. Difatti, Giovanni Battista, quando che vediamo i film, io ha la pelle del leone che si coverte. Perciò già da allora sto leone e ricorda addirittura il richiamo di un ruggito nel deserto. Così sto simbolo ricorda anche la forza della sua parola, al pari della potenza di Venezia. Allora, quindi la parola di sto San Giovanni Battista era sì, potente. Cioè uscigava nel deserto, sì, pentitevi, sì, sì, sì, sì. Forza di assopposi. Sì, al pari alla potenza, sì, di Venezia. Ma sì, guarda, Guido, dove che va? Che strane connessioni. Che strane, veramente. Ecco, è il libro che da noi altri, anche a me, è il libro che le unga in mamma, vero? E se credo al Vangelo, ma non è il Vangelo. È un libro così dove che c'è sta scritto Pax Tivi Marce Evangelista Meo, non c'è niente di Vangelo, non c'è scritto niente, neanche diciamo Vangelo, ma non, non che è libro, che libro è questo? Niente, il gaffa conto se do pagine di marmo. Sì, certo, ah, esatto, verso, solo no? l'incisione della sua scritta. Pace a te, Marco, evangelista meo, però dopo non ti giri a pagina, non ti vedi Vangelo. No, perché per basta. Forza, sì, sì. Perciò gli altri credemo che sia il Vangelo, invece non c'è. E la rappresenta sempre la sovranità. L'aureola del leone che è in testa rappresenta la tradizione della cristianità e anche della santità. La santità, esatto. Ecco, ora torniamo a Asiago. Torniamo ora al leone che è il suo attore. Come già detto, sta piastra petata al suo attore si intravede appena appena al muso. Sapendo bene che per guardarlo meglio, come che ho detto prima, bisogna andare in alto, non su attore. Allora, ma andando in alto lo si vede tutto? No, se ti vai in alto, bisogna che ti vedi da una casa di fronte. Ho capito. Ecco, sì. E difatti questo è quello che ha studiato i professori dell'araldica. E ora gli dice, no, devo guardarlo andare in alto. Per gentil concessione della signora, adesso dico anche il nome, tanto ne conosciamo, Novella Sartori, il capodesto fotografarlo dal finestrone del suo appartamento. Ecco come. E che scoperta fioi che ha fatto, una maravesa, una roba più unica che rara. E dopo averlo esaminato con centenera di foto, disegni e altre bandiere, e consultato il confaeum, no. Quando chi ha fotografato le onde attore, che ha girato a volta, gli ha consultato quello che è il suo assaio, quello del mio sì e sento, che parlavamo prima. Mm-hmm. E è la stessa roba. E se lo sto leone ha una storia proprio... Eh sì. È una storia leone sì. Perché... E ora, sì, deve essere così. E se arrivai a questa conclusione, chi se tutti do precisi. E la saggia decisione di riprodurre il suo attore il proprio simbolo, non solo per ricordare il connubio, e torniamo ancora a quei sette comuni, ma l'orgoglio della popolazione che ha mantenuto le sue origini. Ecco. E adesso esaminiamo quello che c'è dentro la sala. Beh, adesso ci fermiamo un sì, momentino. Fermi. Ecco, così ti riposi un po'. Sì, sì. Allora, per ricordare Jimmy Fontana, che è mancato poco tempo fa, ci ascoltiamo Melodie. Suona, suona melodia, eri bella. Sembri tu, quanto eri bella, non so più. Mare grande, mare blu, sembri piangere anche tu, ma quando sento questa melodia, suoni melodia. Eri bella, eri mia. Mare grande, mare blu. Sembri piangere anche tu. Ma quando sento questa passato, le cancello, il mio mondo adesso è questa melodia. I sogni del passato non li voglio, ma vorrei riaverti ancora qui con me. Eccoci di nuovo in studio con la nostra Franca. Ecco, Franca? Siamo al finale. Va bene. Dunque, mi qua davanti ho l'immagine di tutti e due leoni, sia quello di marmo che è sul attore e sia quello di seda che è dentro la sala del comune, no? Sì. Allora, i se precisi perché quello di attore è una riproduzione di quello di sala del consiglio. I se precisi escludendo il materiale, le seda, sì, perché una è marmo, l'altra è marmo. Seta, sì. Quello suo attore, che posa stesso, adesso dico così, no, quello suo attore è il tienta, caso è stata a sinistra, che ha un braccio di un uomo, pare. E è stata severta, per proprio ma è il tien manna croce. E vicino, sotto, diremo, la base della croce, che è tre piccoli basso rilievi, serai da una cornice ovale, tre vovise. Tre uova? Questi bassi rilievi cosa sono? Adesso appunto che se adesso ti spiego che se sti tre sue croce che se sti tre bassi rilievi. Dunque, sul primo si vede la figura di un uomo nel gesto di donare un albero. Sul secondo che se tre teste che rappresenta i sette comuni di Asiago, vero? Tre teste? Sette teste. Sì. Sul terzo invece che se tre teste, oh, è tutto quello, beh, e se tre teste de mori, proprio neri, mori. Tutto però in campo cesti, perché già tutto pitturato una volta, adesso io per sicuro. Dunque, i mori, l'ovale di tre mori, rappresenta e a conquista deste tre isole o regni, Cipro, Candia e Morea. Sti mori hanno conquistato Iga, sì. Aiuta a Serenissima che dopo nel finale arriviamo alla conclusione e come sfondo sotto ancora che se una montagnola c'era allusione al territorio e a donazione del legname fatta dai comuni a Venezia. Venezia è sempre in mezzo, insomma. Esatto, no, ma un legame paritario mi pare. Senti, ma te pare aiutami. Scusa, Antonio? Antonio. Sì. Insomma, sta croce è a seria strada, prima ancora, è il primo simbolo, perché quando che Venezia partiva per le crociate, cioè portava i crociati perché erano smandati a Pertecra, e ripartiva con la croce per chi era cristiani. E le 11 venivano dopo, i simboli si venivano dopo il vestito, però sì, che c'era la croce. Che se sti tre uovi di marmo, uno sarebbe che appunto l'uomo che tasa gli alberi, la concessione che gli dà la Repubblica di adoperare la sua roba, diremmo. Esatto. Ecco, dopo che sei i sette comuni, Asiago, Galio e sti tre mori, che adesso diremmo, no? Ecco, siamo arrivati al territorio e all'usione delle A. Quello di sera che si comune rappresenta la stessa storia, ma è dal 1600. Torniamo al discorso di prima. Durante i restauri di quello dentro il comune, i ga trovare i camai, perché questo caso è tutto fatto di seda, no? E fa una trapunta, non so come chi ha fatto farlo, i ga trovare in mezzo a sto lavoro sette stee comete. Straordinario. Nel restauro i ga trovare sei comete, che sempre nell'araldica e simbolo può significare chiarezza de fama e illustre virtù per splendor che è Gaia Bessa. un complimento ai comuni di Asiago, così intesi come omaggio, paragonandoli da Venezia a Ebessa e a limpidezza dei sette stelle, come te. Poetico e significativo poetico, proprio. Certo. Comunque questi due leoni, uno di marmo e uno di seta. E è la stessa figura, è stato riprodotto e... Parati, che sta regalando appunto al gasta croce. Dopo vi dice che sul cantone, perché mi sono andata a guardarlo, con che tocca con mano. Ah sì? Sì, fate il tago trovare anche l'amministratore comunale, che era Lucrezia, che scriveva una roba, detto, scrivi quel che adesso è eso. E io mi ho detto, guarda, fa interessante, fa bambina, no, che fa Giuseppe e nonna. E ora, questa di copiare, ora mi ha spiegato un fiantino la storia che già mia, che avevo già sviluppata, no? E fa neanche non si sente fa chiesa veneziana. Beh, che faccio, orgoglio di razza. E Mirga ha detto, parlo ancora il cimbro. Bravo, ho detto. E ha pensato fa che ho sposato una veneziana. Meglio roba che capo di sto il cimbro, adesso è difficile. È tremendo. Penso proprio di sì. È origine germanica. Ecco, sì. Quasi sa di affinio sta complicata storia. Tutto per dire che di sti due leoni, uno rappresenta quello, se sta una riproduzione di quest'altro, però su quello che ha restato ora in comune e ha trovato tutte queste robe tutte che prima non sapeva. Che... Perciò ti vedi che la storia va avanti proprio no con due gambe. Sì, decisamente. Ma il leone, come sì, che sei il protettore, il leone di Venezia, no? Sì. Che vuole indicare la forza, la potenza, sì, la potenza di Venezia. Del no? Leone, sì. Ecco. Paragona appunto anche alla voce forte di Giovanni Battista nel deserto, la voce del deserto che oscillava e robe contro i pagani, no? Esatto. Abbiate fede. Ecco sì, allora quasi finito. Molto interessante la storia. Nel canton di sto gonfalon che si municipio, a sinistra che c'è una targa d'argento. E sulla targa d'argento c'è scritto... Per 25 anni... dal 1664-69, in cui Venezia combatté i turchi, spontaneamente i sette comuni mantennero con l'erario della reggenza uomini in armi e remo. Ah. Cioè per nave e per terra. Sì, ma nega questo schei se ha fatto da soi. Quindi un rapporto paritario e non subordinato, questo dunque, è importante. La Repubblica di San Marco regalava ai nostri volontari reduci da Candia, Cipro e Morea, capitanati dal conte Domenico Barbiero, questo sacro vessillo che è già da conservare nel periodo di guerra presso il circolo Alpini. È già da sconto, forse è per quello che è stata fuori adesso. Salvo dalle distruzioni belliche. Asiago qui serba con orgoglio. Beh, immagino che serva con orgoglio certe cose. Ecco. Bravi. Comunque è stata una bella spiegazione. Sì, mi serve per me spiegare, perché è stato assolutamente. E infatti, qua in Messe, chi visita Asiago trova ancora le testimonianze della fratellanza con Venezia, come il marmoreo leone di San Marco che si staglia sulla torre e nell'edificio comunale, e inoltre conservato un vessillo donato dalla Repubblica Serenissima all'altopiano nel secolo XVI. Comunque è una bella storia anche Asiago, però delle belle cose straordinarie. Sì, appunto. Mi vado adesso che ho finito, ho trovato un foglietto su di privilegi originali di sette comuni. Non mi interessa il libro, solo che l'ultima parte è 4-5 righe. E dice come si legge nella presentazione di questa ristampa di sto libro, che non so. I privilegi dei sette comuni, difesi con tanta forza lungo i secoli, non erano sentiti come elementi di onore, ma necessità della natura. Provvidenza necessaria per chi, dovendo pagare tutto alla natura, non può pagare niente al sovrano. Guarda che è eccezionale. Forte. Privilegi difesi continuamente e disperatamente da tutti i sette comuni e dalle contrade annesse, erano ritenuto sostegno essenziale nella vita molto dura dei montanari, condannati per essere perpetuamente schiavi. I documenti pubblicati in questo libro sono importanti non solo per la storia di sette comuni dell'Altopiano, ma anche per la storia della Repubblica di Venezia nel suo rapporto di stretta unione col territorio veneto, in un sistema, dotato di straordinaria efficienza e di senso di giustizia. Bello. Non si poteva dire meglio. Ti vedi, dico. Ma bellissimo. Grazie Franca, ti ringrazio. No, è stata una bella spiegazione. Ringraziamo sempre per la cosa esauriente e esaustiva. E ti diciamo alla prossima, perché non credo di cavartela così. Io non abbiamo preso niente. Alla prossima, allora. Grazie. Ciao, Franca, e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, qui non possiamo concludere, diciamo, questa puntata su Asiago, se non ricordando un famoso figlio di queste terre, Mario Rigoni Stern. Nato sull'altopiano dei Sette Comuni nel 21 da Giovanni Battista Rigoni e Annetta Vescovi, terzo di sette fratelli, la famiglia Rigoni, soprannominata Stern, cioè Stella, commerciava con la pianura in prodotti delle malghe alpine, pezzi di lino, lana e manufatti in legno della comunità dell'altipiano. Nel 38 si arruola volontario alla Scuola Centrale Militare di Alpinismo, ora Centro Addestramento Alpino di Aosta, ed ebbe come istruttori il maestro di sci Gigi Panei, la guida alpina Renato Chabot e l'alpinista Giacomo Chiara. Più tardi combatte come alpino nella divisione Tridentina, nel battaglione Vestone ai confini con la Francia, e nel 40 a fianco della Germania, quindi Albania, Grecia e Russia, ove partecipò da volontario alla campagna militare contro l'Unione Sovietica. Rigoni Stern, ancora nel maggio 42, salutò la campagna militare contro l'Unione Sovietica con le parole: «Non vi è stata una guerra più giusta di questa contro la Russia Sovietica», salvo poi naturalmente cambiare parere. Fatto prigioniero dei tedeschi dopo la firma dell'armistizio di Cassibile dell'8 settembre 43, fu deportato in campo di concentramento a Hohenstein, in Prussia orientale, dove rimane prigioniero rifiutando, come la maggioranza dei militari italiani catturati dai nazisti, di ottenere la libertà in cambio dell'arruolamento nelle forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Dopo la liberazione del campo durante l'avanzata dell'Armata Rossa verso il cuore della Germania, rientrò a casa a piedi attraversando le Alpi, dopo due anni di prigionia, il 5 maggio del 45. La sua particolare sensibilità lo ha contraddistinto anche durante la campagna di Russia. Rigoni Stern è ricordato per i suoi interventi in favore di alcuni civili in condizioni disagiate ed incapaci di sostentarsi, che sono sopravvissuti grazie a lui. Ne è un esempio Nikolai Sanvelian, che da bambino fu salvato da Mario e che è diventato uno dei più apprezzati scrittori russi, che assieme ai maggiori esponenti della cultura russa e degli italiani, Mario Rigoni Stern, appunto, Alberto Moravia e Giancarlo Pallavicini, ha dato vita all'Associazione Internazionale degli Intellettuali MIR Cultura, MIR che significa pace, sì, naturalmente. E il momento culminante della mia vita, dice, non è stato quando ho vinto premi letterari o ho scritto libri come Il sergente nella neve, ma quando la notte dal 15 al 16 sono partito da qui sul Don con 70 alpini e ho camminato verso occidente per arrivare a casa. E sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo e riuscire a partire dalla prima linea organizzando lo sganciamento. Quello è stato il capolavoro della mia vita. Finita la guerra, Rigoni Stern ritorna ad Asiago, da dove non si trasferirà più e dove ha vissuto fino alla morte nella casa da lui stesso costruita. Per la sua sensibilità verso il mondo della natura e della montagna, l'11 maggio del 98 l'Università di Padova gli ha conferito la laurea honoris causa in scienze forestali e ambientali. Muore il 16 giugno 2008. Per sua stessa volontà la notizia della morte verrà data solo a funerali celebrati. Prima di morire si fa accompagnare dai figli sui luoghi a lui più cari dell'altopiano, a Vezzena e a Marcesina in particolare. Durante la malattia chiede di non essere ricoverato in ospedale ed è assecondato. Sempre su sua richiesta viene sepolto senza vestiti nella nuda terra, sotto una semplice croce di legno d'abete, come tanti soldati caduti sull'altipiano durante la Grande Guerra. Bello. Ecco, questi sono i personaggi che noi amiamo. Oltre il sergente della neve, cosa ha scritto anche un altro che stavo leggendo? Altri, però sì. Sono le opere sue, l'opera sua migliore è quella della sua vita, del suo esempio. Della sua. E così siamo opera, arrivati ormai alla fine. E qui mancano pochi secondi, naturalmente sì, noi allora ringraziamo ancora le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori per l'onore che ci fanno nel seguirci e speriamo di essere sempre all'altezza delle loro aspettative. Diciamo anche una cosa. cosa, non diciamo, ma domenica prossima ci sarà una sorpresa. Benissimo. Benissimo. D'accordo, allora, l'attendiamo impazienti. Allora, come sempre, a tutti porgo il mio saluto più affettuoso dicendovi ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.